Siamo qua oggi nell'ambito di una giornata nazionale di mobilitazione e di sciopero generale delle lavoratrici e dei lavoratori. Diciamo che l'8 di marzo è diventato un po' un appuntamento fisso per esprimere ovviamente la nostra contrarietà, la nostra rabbia contro la violenza ovviamente verso le donne. Quest'anno è nata anche una piattaforma che è condivisa da più sindacati di base. Qua adesso in piazza ci sono i CGB e COBA. E sostanzialmente abbiamo condiviso dei punti della piattaforma che costituiscono un po' le motivazioni dello sciopero, un po' ovviamente quello che noi richiediamo. Ci sono anche altri sindacati di base oltre CGB e COBAS che hanno aderito, che oggi nell'ambito di questa giornata magari hanno presidi in altri luoghi, in altri orari. Noi ovviamente scioperiamo contro la violenza verso le donne, scioperiamo per la parità di diritti, la parità di salario, contro ogni discriminazione, non solamente nei luoghi di lavoro ma all'interno di tutta società. Scioperiamo contro lo sfruttamento del lavoro, soprattutto quello femminile. Richiediamo più servizi pubblici, più scuole pubbliche, chiediamo più welfare, perché la mancanza di welfare in questo paese è un problema ed è la maggiore motivazione per cui spesso le lavoratrici, anche i lavoratori, ma maggiormente le lavoratrici donne, sono costrette a lasciare il lavoro o ridursi a fare dei part-time, con ovviamente tutte le conseguenze anche in prospettiva di una futura pensione e di un reddito. La mancanza soprattutto del welfare pubblico per l'assistenza ai genitori anziani è una delle motivazioni, oltre quella di assistere alle cure familiari dei propri figli, che spesso spingono le lavoratrici a lasciare il lavoro. L'assistenza agli anziani non esiste, cioè un welfare pubblico per l'assistenza dei propri genitori anziani non esiste. C'è privato, è costoso, non è sicuramente per le tasche dei lavoratori dipendenti e delle lavoratrici dipendenti, per cui purtroppo spesso si effettua la scelta di abbandonare il lavoro. Per quanto riguarda i figli idem, noi richiediamo ovviamente la parità di diritti in tutti i sensi, che parte anche dal riconoscimento della maternità obbligatoria per l'uomo, perché se in questo paese la maternità fosse obbligatoria per l'uomo e per la donna, probabilmente sarebbe già un buon inizio per evitare le discriminazioni nell'ambito lavorativo. Richiediamo l'innalzamento al 100% del pagamento della maternità facoltativa, che attualmente è al 30% sino ad una determinata età e poi è zero a seconda del reddito, 100% anche per quello, per evitare appunto che i figli o i genitori siano la motivazione per abbandonare sostanzialmente il lavoro. L'altra motivazione che abbiamo aggiunto alla piattaforma di sciopero adesso è quella contro la guerra. Dico l'abbiamo aggiunta successivamente perché quando è scoppiata avevamo già indetto lo sciopero. Noi siamo contro la guerra, contro ogni forma di imperialismo, siamo contro la guerra senza se e senza ma. Lo siamo non solamente per poi le condizioni, le conseguenze che sappiamo tutti dal punto di vista sociale, umanitario e quant'altro, ma anche perché la conseguenza ovviamente della guerra la ripagano poi tutti, paghiamo tutti, cittadini, lavoratrici e lavoratori, e la paghiamo nella forma dell'aumento ovviamente delle bollette, l'aumento delle tasse, il blocco dei salari. Già da quando è scoppiata la guerra, nella scorsa settimana, le aziende iniziano ad esempio a annullare gli incontri per la discussione del premio di produttività, dunque tutto il salario integrativo, laddove si ha la possibilità di discutere di un salario integrativo, perché poi ci sono anche le aziende dove quella discussione non c'è, che addirittura stanno comunicando ai lavoratori che per via dell'aumento delle tasse e delle bollette la data di pagamento degli stipendi viene prorogata di 2-3 settimane, che ovviamente c'è questo motivo anche che si ripercuote sui lavoratori, perché anche i lavoratori hanno delle bollette che si sono aumentate, hanno delle scadenze, hanno dei pagamenti degli affitti.